questa mostra che è stata esposta per la prima volta a Roma a partire dall'autunno del 2023, dal dicembre del 2023 fino al febbraio del 2024. È una mostra che ha riscosso un enorme successo di pubblico, trattandosi di una mostra su una figura politica dell'Italia repubblicana. Abbiamo avuto quasi 70.000 visitatori, sono quasi cifre da mostra d'arte per intenderci, quindi è una grande esposizione, quindi è stata una grande soddisfazione lavorare a quella che di fatto è stata una delle mostre sulla storia politica italiana nella seconda metà del Novecento, tra le più riuscite, tra le più seguite. È stato un piacere anche vedere che il pubblico era composto prevalentemente da giovani generazioni ed è un piacere vederla anche esposta qui a Bologna, perché per ovvie ragioni simboliche e storiche è così legata a una figura come quella di Berlinguer. Sarebbe da ragionare forse anche sulle ragioni di questo successo, ragiono più da storico che da espositore. Sono ragioni che ovviamente hanno a che fare con la figura politica di Berlinguer, con la sua proposta politica, con la sua certa attualità, diciamo, che attraverso i temi che abbiamo esposto, la documentazione, anche il modo di porsi nel suo rapporto con il suo popolo e più in generale con la società civile italiana, anche non necessariamente quella che si riconosceva o votava nel PC, dimostra di avere durabilità come figura storica che gli ha consentito di entrare ben prima che noi organizzassimo questa mostra nel Pantheon della Repubblica. Ovviamente questa mostra contribuisce a un processo di istituzionalizzazione della figura di Berlinguer che chiaramente era precedente, era dovuta alla sua presenza, all'affetto che milioni di persone gli hanno tributato, ma anche alla una sua attualità non sempre sincronica con i nostri tempi. L'attualità, un'attualità paradossale, nel senso che probabilmente Berlinguer resta ancora oggi attuale perché molti dei messaggi principali della sua proposta politica restano drammaticamente attuali nell'Italia e nel mondo di oggi. Basterebbe pensare su tutti all'urgenza, all'emergenza della guerra, del riarmo, a quanto una figura come quella di Berlinguer, che credeva nella triade libertà, fraternità, uguaglianza, in cui tutte queste tre parole fondanti della modernità si tenevano insieme, quanto una persona che credeva a questa triade in un'ottica non soltanto nazionale ma anche transnazionale, estesa a tutto il mondo, può essere attuale in un mondo come quello di oggi, che è ancora caratterizzato da pesantissimi squilibri e condizioni che meriterebbero probabilmente di essere affrontate con quella mentalità globale che era tipica di Enrico Berlinguer. Ecco, parliamo un po' dello spazio espositivo dentro il quale ci stiamo muovendo proprio adesso. Una mostra ricchissima, multimediale. Come è stato curato questo spazio espositivo? Allora, lo spazio espositivo riprende l'organizzazione per sezioni che avevamo utilizzato a Roma. Rispetto a Roma c'è una differenza. Lì a Roma era diviso nettamente tra due padiglioni, qui invece c'è un unico percorso, e questo secondo me consente anche di visitarla restituendone bene, non direi meglio perché anche a Roma era restituito molto bene, restituendone bene tutta l'evoluzione concettuale che accompagna questa mostra, che si compone di una parte propriamente storica, che è composta delle cinque sezioni tematiche cui è divisa la mostra, ossia le sezioni che si occupano della, oltre la prima che è dedicata alla famiglia e agli affetti di Berlinguer, anche due sezioni dedicate al Berlinguer italiano, prima dirigente del PC, successivamente segretario del Partito Comunista Italiano durante degli anni molto difficili ma anche di straordinari progressi come gli anni 70 e i primi anni 80, e altre due sezioni, la quarta e la quinta, che invece ci parla di un Berlinguer più globale, per l'appunto il Berlinguer leader non solo di un partito italiano ma di un partito italiano che era anche un partito internazionale, e il Berlinguer cosiddetto dei pensieri lunghi, ossia il Berlinguer che della nostra quinta sezione Attualità e Futuro, in cui sono raccolti dei documenti che hanno a che fare con quella parte della riflessione politica di Berlinguer che di più si proietta come eredità dopo la sua morte. Dopo di questo c'è anche una parte più iconografica costruita attraverso manifesti, attraverso ovviamente campane sonore, video, attraverso anche le immagini della satira, attraverso le immagini e le prime pagine dei giornali che ci ricordano l'addio che gli venne tributato da milioni di persone a Roma dopo la morte, ci restituiscono probabilmente di più la connessione sentimentale di Berlinguer con tutta la società italiana e al tempo stesso i punti di vista di questa società, pensa alla satira, non sempre dissacranti in questo caso, non sempre mitopoietici come è giusto che sia, perché noi siamo anche storici, non costruiamo miti, quindi che ci restituiscono anche un'immagine pubblica di Berlinguer più estesa rispetto a quella offerta dal suo mondo, dal mondo del Partito Comunista Italiano. Infatti il titolo della mostra è I luoghi e le parole. Certo, i luoghi, è infatti così non soltanto per i luoghi che noi abbiamo ricostruito e mappato attraverso la mostra, è un Berlinguer per l'appunto italiano e internazionale, come dimostra le due mappe in particolare, dedicata una alla violenza violenza politica nell'Italia degli anni dal 69 all'84, un Berlinguer mondiale che invece era raffigurato in quella mappa che indica i viaggi all'estero e le delegazioni che Berlinguer riceve, ed è un Berlinguer attraverso i suoi documenti, attraverso il suo archivio, attraverso le fotografie restituita nella sua stretta rete di relazioni che aveva con tutto il territorio italiano. Le parole di Berlinguer sono le parole di Berlinguer che si ritrovano sempre nei suoi testi manoscritti o dattiloscritti, che sono largamente esposti in mostra e che si ritrovano negli audio e nei video che accompagnano il visitatore in questa mostra.